Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Non è possibile. Ci deve essere un errore. Guardate un po' quelle sventole. Quelle che? Oh, le orecchie. Oh, queste qui come sono buffe. Grandi o piccola sventola, ben aderenti, leggermente a punta, modello elfo, tondeggianti a topolino, con lobo sfuggente ben pronunciato, ci possono piacere o essere un cruccio, ma una cosa è certa, sono strategicamente importanti. E parlo delle orecchie, naturalmente. Su questo immagino siamo tutti d'accordo. Ciao nonnina, ti ho portato un piccolo regalo. Nel cestino c'è una torta fatta in casa dalla mamma ed una bottiglia di vino. Mentre io passando nel bosco ti ho raccolto un mazzo di fiori. Guarda, ti piacciono? Grazie infinite, nipotina, che pensiero gentile. Oh, santo cielo, che orecchie grandi hai, nonnina. Io non me ne ero mai accorta, sai. Ah, c'è una spiegazione, mia cara. Servono per sentirti meglio quando mi parli. E aveva ragione il lupo, perché anche le dimensioni contano. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Sandro Burdo, medico audiologo all'ospedale Buzzi di Milano. Buongiorno dottore, bentornato. Buongiorno a lei. Dottore, mi conferma che chi ha le orecchie grandi sente meglio? Insomma, la forma fa, certo, la sua? Certo, perché la funzione del padiglione, cioè quello che noi vediamo all'esterno, è quella di raccogliere i suoni, quindi funziona come un imbuto. Se l'imbuto è più grande, evidentemente raccoglie più suoni. E attenzione, l'orecchio esterno, cioè padiglione e condotto uditivo, non solo raccolgono passivamente i suoni, ma funzionano come una cassa di risonanza, per cui ne enfatizzano quelli che servono di più per capire la parola, ad esempio. L'orecchio grande, tant'è che noi portiamo la mano dietro l'orecchio per aumentarne la superficie, serve a sentire meglio. Dottor Burdo, Carmelo Lauricella, che regge la parte tecnica, mi diceva che lui è nato praticamente con le orecchie che ha ora, che sono delle belle bistecchine. Insomma, le orecchie quanto crescono? Crescono con il corpo simmetricamente. Poi ci sono delle persone che hanno delle orecchie più grandi. Un piccolo indovinello per gli ascoltatori: cercate tra gli ultimi politici degli ultimi 5 anni chi ha le orecchie più grandi, e noterete che ce n'è uno che ha delle orecchie di dimensioni molto ampie. E costui sicuramente sente molto meglio degli altri. Chi sarà il politico delle orecchie grandi? È un indovinello. 800. Basta guardare qualche fotografia. Sì, sfogliate oppure andare un po' a memoria. 800 24 00 24. Mi ha stupito, dottor Burdo. Comunque, torniamo alle nostre orecchie. L'orecchio è un organo e l'udito è un senso, così ci dicevano le maestre quando eravamo piccoli, e direi che possiamo proprio usare queste due parole chiave per portare avanti il nostro discorso. Lei è d'accordo? Ne aggiungerei una terza. Ma che è l'ascolto. Ascolto. Che è l'ascolto. Me la segno. Per cui abbiamo l'organo, l'udito. L'udito che è così dalla nascita, può essere affinato facendo determinati esercizi, ma poi noi dell'udito ne facciamo uso ascoltando, e ascoltare è un'abilità appresa, non è congenita. E possiamo quindi imparare a farlo. Possiamo imparare a farlo, e con un ottimo ascolto possiamo superare alcuni deficit uditivi, ad esempio. Vogliamo fare un esempio? L'esempio è chi ha una lieve sordità impara delle strategie di ascolto che generalmente l'udente non ha, per superare i suoi problemi. Ad esempio, riesce a abbinare maggiormente la vista con l'udito, ne fa un maggior uso, e noi non ci accorgiamo che la persona che abbiamo di fronte ha un deficit uditivo, pur avendo una lieve sordità. Dottor Burdo, intanto iniziano ad arrivare il nome dei politici, va molto Andreotti per adesso. Andreotti ha l'orecchio, secondo me, quasi perfetto, perché l'orecchio un po' a sventola raccoglie meglio i suoni che vengono frontalmente, e generalmente quando noi parliamo con le persone ci rivolgiamo di fronte, per cui in questo modo esclude il rumore posteriore. Poi ci sono invece, c'è un politico che ha delle dimensioni evidenti, che parlano da sole, e non è comunque Andreotti. Ma intanto, anche se non siete politici, volete raccontarci la forma delle vostre orecchie, il dottor Burdo possiamo dire che è preparato. 800 24 00 24. Abbiamo parlato di udito, lo sappiamo che può calare, però però niente paura, perché tutto c'è rimedio. Con un po' di attenzione si può evitare anche di correre ai ripari. Se siete delicati d'orecchio, se il vostro orecchio si tappa, se vi pare che il vostro udito magari in situazioni particolari non sia più quello di una volta, non dovete fare altro che contattare il nostro numero verde. Dottor Burdo, in genere si pensa che l'udito fisiologicamente tenda a diminuire con l'età, ma il calo dell'udito non ha a che fare solo con le primavere che ci portiamo sulle spalle? Direi proprio di no. Ma inizia... Con l'età si sommano una serie di eventi patologici che quando una persona anziana li ha raccolti tutti, e quindi si può avere una perdita di udito. In realtà la perdita di udito nella maggior parte delle persone insorge nell'età matura, 40-50 anni. Mm-hmm. Molto spesso lo tengono, diciamo, nascosto, perché riescono, come dicevo prima, con un ascolto particolare a sopperire a questi problemi. Sono problemi di comprensione, poi alla fine, attenzione, con uno sforzo incredibile. Queste sono persone che devono concentrarsi il doppio di noi, cioè di chi sente bene, per cui alla fine della giornata sono esausti, e questo ad esempio è un segno di sordità anche lieve. La persona che per ascoltare deve concentrarsi molto, evidentemente si stanca prima degli altri, quindi arriva a fine giornata che non ce la fa. Ora, io invito tutti i 40-50enni a fare outing per questo in tipo che di senso? Patologia. Sulla patologia. Lo devono dichiarare, il problema è tenerlo nascosto. Dottor Burdo, lei dice invito a fare outing, ma noi magari non ce ne rendiamo conto, cioè il nostro udito cala, ma dato che lei ci insegna che il nostro organismo e alcuni organi in particolare sono proprio capaci di cavarsela un po', di adattarsi, magari noi mascheriamo, ma proprio perché riusciamo a compensare in qualche modo. No, per darci una giustificazione, dottor Burdo. Certo, riusciamo, ma molto spesso, guardi, ho appena fatto un'indagine in un gruppo di famiglie, ben 160, sì. Su queste 160 abbiamo trovato 40 genitori di bambini, miei pazienti, con problemi di udito che io assolutamente non pensavo ci fossero. Il motivo per cui l'ho trovato è perché il questionario era anonimo. E quindi sono saltati fuori. Sì, quando io invito a fare outing è perché facendo outing è il primo passo per poi gestire un trattamento terapeutico, cioè per risolvere il problema. Allora senta, dottor Burdo, ci aiuti a fare outing, ma ancora prima a riconoscere che il nostro udito magari inizia ad avere qualche piccolo problema. Facciamo un piccolo test. Come lei ha già sottolineato, secondo me una cosa molto interessante, ed è la fatica che avvertiamo alla sera. Se a casa dopo una giornata di lavoro torniamo con quella sensazione di orecchie piene, ma soprattutto di testa, di mente stanca, significa che dobbiamo far fatica anche a raccogliere i suoni, e quindi ci concentriamo molto, forse perché il nostro udito non funziona più come prima. Esatto, e il segno principale prima della stanchezza, la difficoltà uditiva, è quella di non riconoscere quello che vogliamo sentire in un contesto di rumore. Due o tre persone che parlano, non riusciamo a focalizzare la nostra attenzione sul soggetto che sta parlando, che ci interessa, o almeno facciamo molta fatica. Sì. Questo è un segno inequivocabile di inizio di ipoacusia. Ce ne sono altri? Ce ne sono altri, l'ascolto di voce riprodotta, dove la televisione ad esempio è la voce riprodotta più difficile, perché è una modalità di comunicazione diversa, perché non c'è il dialogo con chi è dall'altra parte, e quindi dobbiamo percepire tutto. Allora, l'ipoacusico ha difficoltà nella televisione più degli altri. E infatti alza il volume della televisione, un classico. O attacchi i sottotitoli. Beh, quello è un passo già ulteriore. Già successivo, no? Ma non creda, nel senso che chi arriva stanco dal lavoro, è già stanco di suo, e abbiamo detto perché, se poi deve anche far fatica ad ascoltare il telegiornale, difatti chi ha problemi di udito generalmente guarda Rai 2, il TG2, perché è sottotitolato. Dottor Burdo, questi sono i segnali, possiamo aggiungere anche magari qualche disturbo che avvertiamo nell'orecchio che può disturbare, mi dispiace la ripetizione, ma il nostro ascolto? Che può disturbare non tanto il nostro ascolto, che può essere un segno di ipoacusia, cioè di calo d'udito, sono i famosi acufeni, magari, di cui magari ne trattiamo dopo. Se certo, vuoi, se, è un grande classico di quando parliamo di orecchio, l'acufene, il sì. Fischietto spunta sempre. L'acufene è il sintomo di un orecchio scassato, punto. Cioè non andiamo a cercare spiegazioni strane. Vabbè. Un orecchio che non funziona per definizione fischia. E lasciamola lì. Quindi se il vostro orecchio fischia è scassato, questo l'udito è scassato, possiamo dire così. 800 24 00 24, però noi diremo anche, immagino dottor Burdo, che cosa si può fare. Vincenzo da Teramo, buongiorno a lei, benvenuto. Buongiorno, buona giornata a tutti. Vuole fare outing? No. Io ecco volevo sottoporre al dottor Burdo ecco un po' la mia problematica velocemente. Sì. Dottor Burdo, me li spaventa gli ascoltatori. Che devo? Lei. Allora, Vincenzo, vada che ci sono qua io, gli dica tutto. Sì, allora, prima di tutto premetto, ho un po' di passione per l'apnea, mi piace andare sott'acqua. Bravo. Purtroppo, questo da un po' di tempo, quando ecco già a un metro e mezzo di profondità comincio ad avere problemi su una membrana. Ecco, e poi comunque sono diventato un po' più delicato con le orecchie ultimamente, io ho 41 anni. Quindi ho dei problemi magari d'inverno, mi fanno un po' male, si infiammano. Volevo sapere se c'è ecco una connessione, e in più se la connessione non c'è, precauzioni o rimedi o cure posso adottare per cercare magari di andare un po' in pace sott'acqua senza esagerare. Bravo, bravo Vincenzo. Ecco. Dottor Burdo. È chiaro che ha una disfunzione tubarica, la tuba di Eustachio è il canale che mette in comunicazione il naso con l'orecchio ed è quella che si tappa e ci dà la sensazione di ottundimento quando saliamo in montagna e che noi stappiamo soffiando forte con il naso o deglutendo. Ora, la tuba è generalmente chiusa e si apre tutte le volte che noi deglutiamo. In questo modo entra dell'aria nell'orecchio, la membrana del timpano si equilibra sulla pressione atmosferica. Ci sono delle persone, per una patologia evidentemente, che non riescono ad aprire la tuba automaticamente come l'apriamo normalmente. E questo si evidenia con uno stress pressorio, quale potrebbe essere un'apnea. Generalmente una tuba normale può dar fastidio dopo i 5 metri. Qui siamo un metro e mezzo. È un po' poco. È un po' poco. E se poi aggiungiamo che soffre anche di otiti, e le otiti vedono quasi sempre, nel 90% dei casi, il primo movens, cioè la causa iniziale in una tuba che non funziona bene. Quindi le due cose sono collegate, c'è una patologia della tuba che va trattata. Si tratta con? Si tratta con, si possono fare sia delle terapie mediche, quello che si faceva una volta, i sulfumigi, piuttosto che molto efficaci sono le terapie termali in questi casi, con i cateterismi tubarici, così si chiamano, cioè si insuffla, un po' di aria. Si stoppa, come si vuol dire, la tuba. Sì, sì. Quindi c'è un rimedio in modo che il nostro ascoltatore possa continuare ad andare sott'acqua senza avere questo problema. Certo. L'importante è farsi dare un occhio. Intanto arrivano molti messaggi al 349-238-6666 con proposte di politici con orecchie grandi. Naturalmente vi invito anche, se volete raccontarci quale politica, quale politico state pensando con le orecchie particolarmente grandi. Io non so se quello che penso io è quello che pensa il dottor Burdo, ma insomma confrontiamoci. Intanto abbiamo Carmelo da Monza. Buongiorno Carmelo, benvenuto. Sì, buongiorno, grazie, vi ascolto sempre. Bravo. Vede, lei ha le orecchie grandi, Carmelo? Sì. Vede? Volevo dire anche un aneddoto che mi è successo. Oltre al politico. Sì, perché anche al politico, bravo. Allora sì. Prima l'aneddoto. Sì, io ho sempre avuto pubblici esercizi, ancora adesso ne ho uno nel parco di Monza. Sì. E cosa succede? Che quando ero ragazzo giocavo in una squadra di calcio, avevo una fotografia molto grande, no? Sì. Della mia squadra di calcio in cui c'ero anch'io. E un giorno un mio cliente era lì che mangiava un panino e continuava a ridere. Gli faccio, ma che cos'hai da ridere? E mi fa, guarda quello lì che orecchie che ha, mi sono girato, ero io. Evidentemente l'ho fatta controvento, perché non mi riscontro, devo dire la verità. Però, no. Però vede che avere le orecchie grandi, almeno il dottor Burdo ci ha detto che insomma ci aiuta a sentire meglio. E se, c'era stata anche un po' di tempo fa, dottor Burdo, ma parlo di una decina di anni fa, una ricerca che era stata pubblicata su una rivista prestigiosa e che diceva che chi aveva le orecchie grandi viveva anche di più. Questo può anche essere, perché l'udito, attenzione, è la porta dell'anima, e quindi chi sente meglio secondo me è favorito ad avere una vita più serena e di conseguenza. E quindi, anche... Carmelo, è il politico con le orecchie grandi secondo lei chi è? Sì, ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, oltretutto, è il cavaliere Berlusconi. Perché sono fughe verso la testa, però effettivamente sono grandi, secondo me. Anche secondo me, dottor sì. Burdo? Ma anche secondo me il cavaliere ha un ottimo udito. Stava pensando a lui? Sì. Vede Carmelo, vede che lei con le orecchie grandi ci ha visto lungo. Grazie sì. A Carmelo, grazie. Perché ci vuole orecchio, bisogna avere il pacco immerso dentro il secchio. E per fortuna che c'è l'orecchio, che all'occorrenza può trasformarsi in una straordinaria mappa del corpo umano. Osservate l'orecchio del vostro vicino, il vostro, se avete uno specchio. Io intanto saluto il dottor Marco Maiola, medico agopuntore, docente di agopuntura alla scuola Sowen di Milano. Buongiorno, dottor Maiola. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. A me sembra un fagiolo, ma solo perché lo osservo dall'occidentale. Ma sì, poi mi riaggancio a quello che stavate dicendo in modo interessante anche in studio, perché in effetti secondo la medicina cinese questo fagiolo, l'orecchio, è in relazione con un altro fagiolo che abbiamo all'interno del corpo, che è il rene, che è la zona dove si raccolgono principalmente le energie vitali. Quindi dal nostro punto di vista, dal punto di vista della medicina tradizionale cinese, l'avere le orecchie grandi potrebbe voler dire avere una buona risorsa energetica di quelle ereditarie. Quindi ci potrebbe stare anche quei discorsi che stavate facendo voi in studio. Vede, dottor Burdo, siamo stati bravi, vede, che in coppia siamo andati bene. Sì, ma poi il discorso della mappa a cui faceva riferimento, in effetti la paternità della mappatura dell'orecchio è un po' dibattuta, perché in realtà già i cinesi dal VI secolo d.C. avevano utilizzato punti sull'orecchio per trattare patologie funzionali dell'interno. Poi in realtà l'organizzazione vera e propria di una mappa dell'orecchio si deve a un francese, in realtà, perché un certo medico Noget di Lione, che ha verso il 1950 fatto una mappatura molto precisa dell'orecchio, che noi utilizziamo per disturbi funzionali secondo quelle che sono poi le indicazioni dell'OMS di una ventina d'anni fa. Quindi ci sono questi punti che opportunamente stimolati con aghi, magneti, cerottini, che anche con il seme di quella piantina cinese, non so se è una piantina, ma i semi sono piccoli. Esattamente, la vaccaria. Si possono usare o dei piccoli aghi, sono simili a delle minuscole puntine da disegno, se no per esempio dei magnetini, o quello che si usava tradizionalmente erano questi semi di vaccaria che si fissano con un cerotto sulle zone corrispondenti. Quindi se uno vuole migliorare la vista, per farne un esempio, può trovare la zona dell'orecchio e stimolare quella parte con il semino e tenere su questo seme anche per 5-6 giorni. Dottore, ma proviamo a vedere il corpo umano nell'orecchio. Da che parte giriamo la testa? La testa è il lobo? Allora, la testa è la parte bassa, in realtà è esattamente come un feto rovesciato, dove la testa del bambino è verso il lobo dell'orecchio, quindi verso la parte inferiore, poi la colonna si sviluppa lungo la cresta, quella mediale dell'antielice, e in pratica diciamo che le natiche sono verso la parte alta dell'orecchio. Dottor, quindi la colonna vertebrale è quella, tutto, è quella lungo il bordo, mediana lungo l'orecchio, in senso dal basso verso l'alto. Quindi, per dire, se uno volesse farsi un'autodiagnosi, chiaramente con tutte le riserve del caso, perché parliamo sempre di una, di un fai da te che va benissimo, ma che poi deve essere confortato anche da un discorso prettamente invece di tipo medico, si può fare un'autopalpazione di questa zona e magari andare a stimolare le zone dolenti che trova lungo il percorso della quindi colonna. Dove avverto il dolorino, massaggio? Dove avverti il dolorino, massaggia. Poi per adesso esempio, ho le cuffie, non riesco, ma poi proverò. Dottor Burdo, lei provi intanto lei a farlo. Mi sto massaggiando il lobo. Il massaggio dell'orecchio è una modalità anche per stimolare l'energia del corpo in generale. Poi c'è un punto che viene utilizzato per esempio anche molto dai dentisti, è un punto anti-ansia che è localizzato nella, in quella parte triangolare che abbiamo nella parte superiore dell'orecchio. C'è una concavità triangolare con l'apice verso il posteriore. Io la capisco, dov'è questa parte qua? Allora la parte superiore dell'orecchio c'è una piccola avvallamento triangolare, piccolo, sì. un avvallamento triangolare che ha la punta verso il dietro. All'apice di questa punta c'è un punto appunto che si chiama Shenmen, che viene stimolato molto per avere un'azione anti-ansia. Quindi prima di andare dal dentista, il triangolino prima andare dell'orecchio. Al dentista, tenga presente che per esempio in Humanitas qualche anno fa abbiamo fatto un protocollo nel day hospital con l'utilizzo di questo punto per valutare poi il livello dell'ansia preoperatoria del paziente. Fu un protocollo che aveva funzionato molto bene. Senta, dottor Maiola, non è che lei mi manda la foto dell'orecchio con il puntino, che così la mettiamo su Facebook? Le lascio volentieri. Questo compito. Grazie. Non c'è problema, volentieri. Grazie, dottor Maiola. Allora, grazie a voi. Aspettiamo la foto dell'orecchio. Intanto, dottor Burdo? Eccoci. Perché a massaggiare sempre poi il lobo, poi uno magari si addormenta e poi io la chiamo e lei non risponde più. Tra l'altro, non rida così, senta un po', prima di andare ai mercati, un'ascoltatrice che scrive: buongiorno Nicoletta, ascolto Radio 24 dalla mattina alla sera, ma il volume lo tengo medio-alto. Ho fatto la prova dell'udito 2 settimane fa e il risultato era ottimo, sia sulle frequenze alte che su quelle basse, ma... può chiedere al suo ospite, che sarebbe lei, come mai non riesco a tenere basso il volume della radio? Qui è un problema di ascolto. Allora, la radio, come la televisione, ha una banda di frequenza che trasmette una serie di suoni che non sono i suoni della voce naturale, perché ne taglia all'inizio e ne taglia altrettanti alla fine. Che cosa è? Togliendo questa parte di suoni, alcuni soggetti hanno più difficoltà rispetto ad altri a percepire, a capire quello che viene detto, ecco perché devono alzare la voce. Cioè, radio e televisione non trasmettono la voce naturalmente in tutte le sue frequenze, quindi alcune persone di questo ne hanno, ha dei problemi. Quindi però assolutamente normale, si nasce sì. Così. Essere e benessere. Hello darkness my old friend, I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Dottor Burdo, abbiamo bisogno anche di un po' di silenzio, di prenderci una pausa, di ascoltare il silenzio. La cosa straordinaria è che per farlo dobbiamo essere noi primi a stare in silenzio. Per le nostre orecchie, magari anche per le orecchie del nostro partner, questa è già un'occasione di benessere. Sì, perché il rumore in sé, soprattutto noi che viviamo in aree cittadine dove il rumore è continuo, la sollecitazione continua può deteriorare l'udito, anzi lo deteriora sicuramente più di altri stimoli, perché spesso si incolpano le cuffiette, l'iPod, queste cose. In realtà il traffico cittadino la causa maggiore di disagio per le orecchie. E allora proviamo a immaginare il silenzio come una sorta di beauty farm dell'udito. Possiamo anche regalare alle nostre orecchie una specie di programma di remise en forme. E in tutto questo ci aiuta una grande esperta, Nicoletta Pollamattiò, che è in linea con noi, giornalista e fondatrice, conduce Demetrio dell'Accademia del Silenzio, una scuola che, di cui abbiamo già parlato, ma che ricordo promuove una cultura e anche un'ecologia del silenzio. Ciao Nico! Ciao e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, siamo nelle tue mani. Allora proviamo a pensare appunto a un programma di benessere per le nostre povere orecchie affaticate e stressate, poi stressate 24 ore su 24, perché io ricordo sempre che le orecchie non hanno palpebre a differenza degli occhi, quindi sono costantemente sollecitate. Proviamo, allora, da cosa si comincia? Quando si mangia troppo si fa una dieta di solito, no? Una dieta detox. Allora si può immaginare anche di disintossicare l'udito, alleggerire proprio il peso acustico che sopportano le nostre orecchie. Quando si vuole dimagrire si fa un piano delle calorie, ecco, perché non pensare di fare un piano dei decibel? Proviamo a stare per una settimana intera entro i 50 decibel, che sono poi non un volume bassissimo, sono il volume di una normale conversazione non urlata. Il traffico è intorno ai 70 decibel, per intenderci, il transito di un'auto. Quindi prima una dieta acustica. Poi si dice sempre che bisogna fare un po' di moto, comunque, no? È indispensabile un po' di esercizio fisico. Allora, se lo trasliamo alle orecchie, questo, si può fare un po' di esercizio provando proprio a potenziare le nostre capacità di ascolto, a estendere la sensibilità delle nostre orecchie, appunto a esercitandole a percepire dei suoni più leggeri, dei suoni più sottili, dei suoni delicati. Siamo abituati sempre ad ascoltare tutto al massimo volume. Ecco, in realtà le nostre orecchie sono molto più sensibili e possono percepire anche i toni del sottovoce, riscoprire i fruscii, i cinguettii, non solo la musica a palla. Poi, terzo esercizio, aria buona, no? Andiamo spesso a riossigenarci in montagna. Ecco, allora provare ad andare a cercare, non lo so, per qualche gita fuori porta, per un nostro weekend, anche dei luoghi che abbiano una buona qualità acustica, cioè che abbiano un basso livello di inquinamento sonoro. Le oasi del silenzio, ad esempio. E infatti, con Accademia del Silenzio stiamo promuovendo questa iniziativa, che è proprio un censimento in tutta Italia di quelle che sono un po' le oasi acustiche, proprio intesi come luoghi silenziosi, luoghi non inquinati, dove andare a rigenerarsi mente e orecchie. Proprio anche, e assegniamo a questi luoghi la nostra piuma blu, che è un po' un segno di riconoscimento, un marchio di garanzia appunto acustica del luogo. È là la piuma. La piuma blu, sì. E poi, buon ultimo, io farei una proposta davvero controcorrente, che è dimenticare per una settimana, è la proposta di un progetto, diciamo, di disintossicazione, quindi di dimenticare per una settimana il multitasking, far fare alle nostre orecchie una cosa alla volta. Non si capisce perché bisogna sempre, per esempio, parlare o cercare di fare conversazione fra amici con la musica di sottofondo. Ci si può consentire per una settimana o di ascoltare musica, o di parlare e fare conversazione, o di ascoltare la radio, insomma, di fare una cosa alla volta. Dottor Burdo, le piace questo ottimo programma? Molto, molto, complimenti. Sì, sì, vogliamo adottarlo. Sono bravi, questi dell'Accademia del Silenzio, che tra l'altro hanno organizzato un grande evento, che adesso, Nicoletta, dobbiamo dirlo, di cui noi avevamo già dato una super anteprima, perché eri stata proprio tu ospite in trasmissione, che ci avevi lasciato questa chicca. Infatti io ringrazio Essere Benessere, perché è stato il primo a ospitare questa nostra iniziativa, e ti ringrazio di poterla rinnovare oggi, perché ormai è veramente alle porte. Ci siamo. Domenica 21 aprile sarà la prima giornata contro il rumore. È un'iniziativa in realtà europea, anzi addirittura mondiale, perché è stata lanciata a New York, ma è la prima volta che Milano, come città appunto altamente rumorosa, aderisce. È la prima volta che aderisce una città italiana, e quindi faremo in tutta la città, ma il centro sarà principalmente il Museo Diocesano, faremo tutta una serie di incontri legati appunto al tema del silenzio e legati all'idea di proclamare, insomma, che la lotta al rumore è una lotta civile che va fatta appunto soprattutto nelle grandi città, nelle grandi e rumorose città, perché il benessere dell'udito e delle orecchie è un diritto, insomma. Questa è musica per le orecchie del dottor Burdo. Sì. Vero? Le piace? Assolutamente. Allora, per saperne di più si può consultare basta andare sul sito dell'Accademia del Silenzio? Esatto, c'è tutto sul nostro sito www.lua.it, Accademia del Silenzio, e ancora più facile chi è su Facebook, c'è proprio una giornata dedicata, una pagina dedicata che si chiama appunto Giornata contro il rumore, e lì c'è tutto il programma completo. E comunque diciamo il primo appuntamento è domenica 21 aprile alle 11 al Museo Diocesano di Milano. Alle 11, una data, un orario assolutamente buono che porta benessere. Grazie Nicoletta Polla, Matteo, per essere stata con noi, in bocca al lupo, buon silenzio. Grazie, grazie a tutti voi. Nicoletta parlava di Facebook, sicuramente la tecnologia aiuta, e dottor Burdo, aiuta anche il nostro udito. Rapidamente, prima delle informazioni sul traffico, vogliamo parlare di due app che possono essere utili? Sì, ci sono, ma anche tre. Ci sono delle app per smartphone che permettono di eseguire l'esame dell'udito. Si usano le cuffiette, quelle che usiamo per ascoltare la musica. La seconda app interessante trasforma lo smartphone in una protesi acustica, per cui chi pensa di sentire un po' meno e ha uno smartphone può provare l'effetto dell'amplificazione sul suo udito. Anche, sono entrambe gratuite. Sì. La terza, molto interessante dal punto di vista scientifico, con questa, attraverso un test un po' difficile in realtà verbale, cioè si sentono delle parole, bisogna rispondere se è giusto o sbagliata, si riesce a identificare il lobo corticale dominante per il linguaggio personale. Sì. Il 90% delle persone riconoscono le parole attraverso il lobo sinistro, alcuni mancini attraverso il lobo destro, ma non è detto. Quindi è un giochino da fare che dura pochi secondi. Interessante, perché così si scopre che lobo dominante di che lobo sei. Per... sì, e la terza? Le ho dette tutte, sì, tutte e tre. Esame dell'udito, protesi acustica, lobo dominante. Allora, avevo contato male. Essere e benessere. Siamo tornati, abbiamo in linea con noi Alessandro da Grosseto, 800 24 00 24. Buongiorno Alessandro. Buongiorno a voi. Senti, avevo una domanda per il dottor Burgio. Burdo, se storpia il nome, dottor Burdo, ha sentito male? È una piccola testa dell'udito? Può essere, o ascolta? Può essere, va bene. Alessandro, Senta, io ho una domanda da fare sulla cufene e volevo chiedere in particolar modo, siccome io ho un aggravarsi proprio in questi giorni di questo sintomo sull'orecchio destro, non ho mai fatto, seguire da nessuno questa cosa. E pensavo di chiedere se c'è un centro anche a Siena dove sono all'altezza di valutare questa cosa. E soprattutto che cosa ti fanno, dottor Burdo? Perché? La cosa da fare, allora, a Siena ci sono due centri importantissimi in Italia per lo studio della sordità, quindi diciamo che è fortunato da quel punto di vista. Va o al policlinico o in un'università e lì trova degli esperti che si occupano di questo. Una cufene in un orecchio è quasi sempre segno di una sordità in quell'orecchio che va sicuramente indagata e approfondita. Quindi direi che questo sintomo è un sintomo abbastanza importante quando è monolaterale, cioè un orecchio solo, insorge gradualmente. Se poi è associato a un po' di vertigine, nel senso l'orecchio chiuso, direi che la visita deve essere abbastanza consigliata. Sì. Ecco quel che ho da dire sulla musica. Ascoltatela, suonatela, amatela, riveritela e tenete la bocca chiusa. Così scriveva Einstein, ma sentiamo cosa ci racconta un uomo, un pianista a cui la musica ha cambiato la vita. In linea con noi abbiamo il piacere di avere il maestro Ramin Bahrami. Buongiorno maestro. Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori, è un piacere essere con voi. Maestro, la sua storia insegna che ascoltare può cambiare la vita. Sì, assolutamente, anche perché io ebbi la fortuna nella più tenera età di venire a contatto con la meravigliosa e celestiale musica del più grande genio musicale di tutti i tempi, Johann Sebastian Bach, ascoltando un LP di Glenn Gould. Ecco. Thank you. maestro, la critica del settore l'ha definita un mago del suono, un poeta della tastiera, ma lei è anche uno dei massimi esperti di Bach. Tra l'altro nel suo ultimo CD, Amare Bach, racconta un Bach speculativo, galante, un Bach danzante, italiano, domestico, enigmatico. Ci dia tre buone ragioni per ascoltare Bach e soprattutto per farlo entrare nella nostra quotidianità come una sorta di, direi, meditazione musicale per il nostro benessere. Senz'altro. Allora, innanzitutto l'equilibrio, la bellezza, il rigore che va al di là dei problemi terreni, ma che può essere definita la voce per antonomasia del trascendente. Io penso che Johann Sebastian Bach, oltre che essere un maestro di vita, di serenità, di equilibrio, di bellezza, come le dicevo, è anche probabilmente è la migliore prova che qualcosa al di là di noi esiste, almeno per quanto mi riguarda, per cui non posso che riportare ciò che diceva Wolfgang Goethe riguardo a Bach, dicendo che la musica di Bach è il dialogo dell'Onnipotente con se stesso prima della creazione del mondo. Ecco, ma questo direi che questo rende perfettamente l'idea. E a proposito di Bach, e soprattutto prima di salutarla, vogliamo ricordare un appuntamento importante, un concerto che lei... Con grande gioia, stasera io sono adesso a Roma perché c'è questo concerto in memoria di quella meravigliosa donna e grandissima bachiana che era la Rita Levi Montalcini, e ci sarà un concerto alle 20:30 all'Auditorium Santa Cecilia del Parco della Musica, non solo dedicata alla memoria della Rita Levi Montalcini, ma a tutte le donne più deboli del mondo, alle donne africane che fanno molta fatica oggigiorno ad esprimersi, per cui sarà una, diciamo, un omaggio musicale a tutte le donne del mondo, per cui in questo senso però la figura ovviamente di Rita Levi Montalcini unisce il rigore alla poesia, come era del resto il caso di Johann Sebastian Bach. Maestro, la ringrazio per essere stato con noi, è veramente un piacere. Grazie. Grazie infinite, un abbraccio. Buona giornata. Un abbraccio anche a lei, dottor Burdo. Sì. Ecco, queste sono orecchie straordinarie, no? Queste sono orecchie straordinarie che ha sentito, ha detto fin da piccolo io ho ascoltato della buona musica, e questo secondo me è il fattore chiave. Molto probabilmente il maestro ha anche un orecchio assoluto, ma l'orecchio assoluto di per sé non fa diventare grandi musicisti, ci vuole anche l'allenamento all'ascolto, e questo può avvenire quando si è piccoli piccoli, ecco, addirittura quando si è nella pancia della mamma, per intenderci. Quindi portiamoci a casa questo ulteriore consiglio del dottor Burdo, esponiamo i nostri bambini ancora quando sono nella pancia della mamma a una buona musica. Dottor Burdo, grazie per essere stato con noi, è sempre piacevole essere in sua compagnia. Grazie a voi. Allora, dovrei passare la lettera di Matilde, non possiamo farlo perché non c'è tempo, la mettiamo su Facebook. Complimenti a Matilde, io vi aspetto domani, parleremo di super cibi, quelli che aiutano a restare e tornare belli e soprattutto a stare bene. Allora, per domani individuate i vostri punti critici, girovita, diradamento dei capelli, cellulite, metteremo alla prova il dottor Ongaro che promette nel suo nuovo libro che mangiare ci fa belli. Staremo a vedere, vi aspetto domani. Essere e benessere.